fate qualcosa per salvare la razza umana. Sì, sì, non c'è siamo dubbio. Tutti nelle vostre mani. Sì. Fate degli appelli, cercate sì. di far curare amorevolmente gli omosessuali senza continuare a rompere i cocomeri con sta storia dei matrimoni, delle adozioni, dei diritti civili. Ci sono pochi soldi e questi vanno destinati alla continuazione della specie. Punto e basta. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Nessuno tocchi Timperi. Nessuno osi solo sospendere Tiberio Timperi. Per chi non lo conoscesse, Tiberio Timperi è un noto conduttore televisivo, è stato Mediaset, ha fatto programmi per varie televisioni, adesso alla Rai in un fuori onda si è fatto scappare una bestemmia, un'imprecazione, chiamatela come volete. Ovviamente vi facciamo sentire quello che è successo con il beep. Oh, mi raccomando, se non mi avete messo il beep faccio un mazzo così, perché qui ci si può aspettare di tutto. Ci si può aspettare di tutto, perché qualcuno, qualche simpaticone ha fottuto Timperi. Questo è. E la realtà è questa, per cui non bisognerebbe criticare il signor Timperi. Esatto. Bisognerebbe prendersela. Certo, poi uno fuori onda deve stare attento, sì, quello che volete. Però quando si è lì può scappare qualsiasi cosa, diciamo la verità. Però non dovrebbe andare in onda. Chi l'ha mandato in onda è il vero colpevole. Dunque non toccate Timperi, giù le mani da Timperi. A me non me ne frega niente, giornalista, collega, sono cose che mi fanno orrore, queste solidarietà di solito. Ma in questo caso è una questione di logica. Cioè qualcuno ha fregato Timperi, e chi va punito è il responsabile di quella trasmissione che non ha controllato perché era una parte registrata. Vabbè, il pezzetto è questo, col bip sulla bestemmia, ovviamente. Ci vorrebbe un avvocato, meglio se un nostro... ho sbagliato, grazie da capo. Dove c'è il bip c'è un'imprecazione molto... un famoso moccolone, no? Moccolone, certo. Moccolone. Chiaro. Vabbè, lo potete vedere dappertutto, è inutile che ci rompete le scatole, lo potete vedere dappertutto su YouTube, se volete, perché vanno anche viste queste cose per capire di cosa si tratta. Nessuno tocchi Timperi. No, perché a qualcuno della Rai adesso, in queste riunioni che fanno, potrebbe pure venire in testa: sospendiamo Timperi per Follia. Questa bestia. Non ha fatto una bestemmia, ha detto una cosa che può essere considerata, no, offensiva, eccetera, ma fuori dall'onda, non doveva andare in onda. Soprattutto l'hanno fregato, cioè hai detto benissimo, siccome era non in diretta ma registrata quella roba, è gravissimo che a prescindere dalla bestemmia, è grave che se non ci fosse stata la bestemmia non ci sarebbe stato questo casino. Ma l'errore ci sarebbe comunque di qualcuno che ha mandato in onda una cosa sbagliata. Questo è il punto. Oh, devo dirti la verità, che poi racconterò una cosa perché successe a me anni fa. Beh, tanti anni fa. Non avevo dubbi su questo. No, io non bestemmio. Qualcuno t'ha fregato. Bestemmio pochissimo, raramente. Però inciampava e poi racconto meglio. In onda. Andò, uscì fuori una bestemmia. Risentiamo. No, che risentiamo? Possiamo risentire col bip. Ma io non ho problemi col bip. Se si bip, tanto qua i tecnici ci hanno maramaldeggiato per anni. Allora, sempre alla Rai. dai, che succede? Poi andiamo ad alcune cose calde di giornata. C'è una roba caldissima che leggo ora di Borghezio. Alcune cose calde che ha fatto Borghezio. Ma Borghezio vuole poi domani lo. Domani lo taniamo a Strasburgo, preparati! Che ha fatto? Che ha fatto? Porcheria hai fatto ora! Che ha fatto? Che ha fatto? Bloccare tutti i voli a rischio verso l'Europa per Ebola. Bloccare tutti i voli, ha chiesto. Robetta. Ma come Robetta? La vergogna. Ma Robetta, bloccare i voli, va bene. Ma normale polemica, niente di particolare, non è una cosa particolarmente vergognosa, dai. Vabbè. Alla Rai succede che ospite Thomas Milian, mitico Monnezza, no? Era Monnezza, che no? A un certo punto osa dire la parola froci. Froci. Senti da dove parte tutto. Milian, Thomas Milian. Ma mio padre mi menava sempre. E a volte, perché io ero, non so, avevo già le inclinazioni artistiche a 6 anni. E mi piaceva giocare facendo pezzi di teatro. E lui ti picchiava? Non le piaceva, questo. Diceva che fare l'attore era roba da froci. Io non sapevo manco cos'erano i froci, niente. Siccome pronuncia la parola froci, viene ripreso dalla Perego, là, chi conduce la trasmissione. E lui dice: ma noi ne dicevamo froci, non è che mi posso inventare la parola gay. Cioè, all'epoca dicevamo froci, ma basta con questo politicamente corretto, basta! Dicevano in quella epoca, 1959, la parola froci. E quando io dico froci, non sto offendendo nessuno, e sto definendo, non capisco cosa vuol come dire froscio. Come gli omosessuali venivano chiamati a quei tempi. Eh sì, ma né io vivevo a quei tempi, non potevo dire gay. Io definisco una cosa geniale da un certo punto di vista, ma una puttanata sesquipedale questa proposta di Renzi di dare 80 euro per ogni nascituro per i primi 3 anni. Per temevo i primi... anzi, ma dai, temevo. Ragazzi, temevo, ma non si può andare avanti temevo. A proposte di 80 euro, dai, a promesse di 80. Tu ne hai tanti. Ma che c'entra, dai, su, ma allora distribuiamo i soldi così, dai, vabbè, su. Parleremo dopo, 80 euro per ogni cosa. Però per le neomamme, ma dai, certo, su, per i prossimi 3 anni. Meno male, pochi ma sono, ma dei pannolini, ma che di che parli? Ma che vuol dire si compri dei pannolini? Ma bisogna sapevo fare delle cose strutturali, abbassare sapevo le tasse, non regalare ho soldi. Ho capito, ma quello certo, ma ben venga l'abbassamento delle tasse, ma intanto 80 guarda euro aiutano famiglie. Senti, a pagarsi dei pannolini per un mese almeno. Perché tu dove la facevi? Una roba di destra. Allora dove la facevi tu? Senza i pannolini. Dovresti criticare perché è una roba di estrema destra questa roba qua, una roba di estrema destra, una cosa sociale. Ma non c'è punto, sinistra, se una roba intelligente e sociale va bene. Questa no? roba qua, ma dai, su. Ma forza. Certo che è intelligente. Senti, Renzi. Anzi, più intelligente questo degli altri 80 euro. Io da parte mia però so che devo iniziare. Allora, dal prossimo anno, dal primo gennaio, noi abbiamo fatto una scelta piccola e banale. Noi gli 80 euro non li diamo soltanto a chi guadagna meno di 1.500 euro al mese, ma li daremo anche con la misura che abbiamo stabilito per la famiglia, li daremo a tutte le mamme che fanno un figlio nell'arco dei, per i primi 3 anni di vita, perché io lo so cosa significa avere i pannolini, il biberon, le difficoltà dell'asilo quando vai alla scuola materna all'inizio. Abbiamo scoperto che Parenzo è una specie di megafono renziano, perché no, ma non lo sapevo. Ha parlato di pannolini e parla... No, ma lo sai che non lo... Dai, no, ti giuro, su, non l'avevo ascoltato. No, ma ieri, appunto, a maggior ragione. No, a maggior ragione. Hai un filo diretto, hai un filo diretto, hai un filo diretto. No, perché sembra che l'ha ascoltato e ho fatto da megafono. Ti giuro fermi che tutti, fermi tutti. Poi io critico i criticoni, cioè quelli che dicono è andato dalla D'Urso. Ma dove deve andare Renzi? Cioè questi snob del cazzo, ecco, lo posso dire, che criticano la presenza di Renzi dalla D'Urso, sono ridicoli, ha fatto benissimo. Poi io ma sono certo libero di criticare le cose che dice Renzi, ma ha fatto benissimo ad andare dalla D'Urso. E poi criticano il tipo di interviste della D'Urso, ma è chiaro, è un salotto del pomeriggio, che vi aspettavate? Travaglio? Vi aspettavate, che ne so, un generale della Gestapo che interroga? Cioè è la D'Urso che intervista Renzi, punto, intervista, cioè c'è un'intervista come... Si chiamano D'Urso interviste, che sono una situazione, una manca, cioè, questo è bellissimo. Sono gli invidiosi, no? Sono gli invidiosi che criticano, gli invidiosi. Ma abbiamo con noi, caro Parenzo, un uomo che ha un bene po' di problemi al petto. Oddio. Al petto, sì, è un po' costipato. No, anch'io anch'io non sto benissimo. Senatore infatti. Razzi? Ah, sì, buonasera. Che cosa c'è? Anto, come stai? Che è successo? Sono al Mother Day qui a fare radiografia al petto, perché c'è una bronchite che non finisce mai. Ma veramente? Sì, adesso la prima volta per tanto tempo mi ha messo un'iniezione, mi fa male adesso. Ma mi hanno fatto? Mi hanno fatto un'iniezione. Ah, però io l'ho ricevuto, non parente, peccato. Dove te l'hanno messa la sonda, il sondino? T'hanno messo, dove... cioè t'hanno fatto l'iniezione, che t'hanno messo lì. Questo dicevo. Dove te l'hanno fatto l'iniezione? Messo l'iniezione, al culo? Al culo? Al sedere, bravo. Zac! Da bambino mi ricordo che si faceva così. Dai che ti piace. Fai una foto e mandacela, che lo pubblichiamo sul sito della Zanzara. Ma non ho capito, ma che c'hai? Che hai fatto? La radio... senti come tossisci. Poveretto, come... ma questa è la maledetta. Ma dove l'hai presa sta roba? Sarà stato quando... No, penso che l'ho presa a Pescara, perché faceva caldo, molto caldo, sui 28-30 sì. gradi, sì. E magari l'aria condizionata. Ma che Pescara? In Corea l'hai presa sta roba? No, Corea no, Corea una. Sì, sì, Corea stavo, ci si ammala tantissimo in Corea. No. Ci si ammala mai. Ma non ho capito, che ti hanno prescritto, che c'hai alla fine? La bronchite, adesso mi ha scritto il dottore, ma... mi ha fatto una ricetta, 4-5 ricette qui che devo prendere, 4-5. Antibiotici. Come 4-5 ricette? Una ne avrà fatta, scusa. Come 4-5? Ne ha fatte parecchi, perché devo prendere parecchia roba qui. Cioè, ti ha dato gli antibiotici da prendere, ma tu già l'hai presi questi giorni gli antibiotici, mi hai detto? Avevo preso 3 antibiotici, ma Citromax da 500 non ha fatto niente. Adesso mi ha messo una punture, dice che devo fare fino a mercoledì queste punture. Una mattina e una la sera. Ma due punture al giorno, Io direi di fare qualche foto di mandarla, la puntura, sì. Zacco. Sarebbe veramente top. Senti, vabbè, comunque hai la bronchite, questo è accertato, bronchite. Tanti italiani hanno la bronchite. Ma questo si può dire, si può dire che se ne frega, ma si può dire che il senatore Razzi ha la bronchite? Mi dispiace moltissimo, ma come dire, abbracci a Razzi. Ma sei convenzionato o sei andato pagante? Ma che pagante? No, io qui sto pagando. Sei con rimborso della camera poi. No, se no lo mando a Parenzo, lo faccio pagare a Parenzo. Ma quanto hai pagato? Scusa, quanto hai pagato, Antò? No, guarda, adesso, siccome mi avete chiamato, mi sta facendo la dottoressa, mi sta facendo, penso un paio di centinaia di euro, non so. Ah, 200 euro. Ma ti fai fare il rimborsino dalla camera? Poi tanto, c'è il rimborso, Certo. Non lo so, te lo dico io, Senti. Non lo copro mai, comunque, meno male che sto sempre bene, come dici, facciamoci una grattata. Fatti una grattata lì, come si dice, a Liguiuna, come si dice, senti che tosse. Vabbè, traffico, torniamo subito con il senatore Antonio Razzi, che ci racconta qualcosa della Corea, perché c'è qualcosa da dire sulla Corea. Escono notizie incredibili, la nazionale di calcio coreana arrestata dopo aver perso con la Corea del Sud, pare una bufala però, eh. Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Mai. Mai, caro Razzi. Collegamento con la Mater Dei, clinica Mater Dei di Roma. Mi raccomando, amici della Mater Dei, qui siamo nelle vostre mani, amici certo. miei. Siamo rovinati, mi raccomando, un sacco di gente è rovinata, Crozza, la Zanzara, eccetera. Mi raccomando, curate bene il senatore Razzi. Senti, che ha una bronchite, schifoso. Mi raccomando, amici della Mater Dei. No, ma che state a fare? Vai, sei impazzito, Anche c'ho un po' di catarro, ma capito, non come il suo. Possiamo fare radio. Ma il suo è verde, il suo catarro, caro Razzi? Dai. Che colore è il catarro? Mamma che colore mia, è? Guarda che è brutto. È roba brutta. No, mai avuto, e mi fa sudare anche molto, guarda. Ah sì, sudi come un pazzo. Mamma mia, che brutto. Questo io mi dice quello che costa, beh, basta che mi guarisce, me ne sa mica guardare quando. Amici della Mater Dei, mi raccomando, curatelo bene il senatore, curatelo bene. Allora, vabbè, senatore Razzi, qui però Parenzo, ma che sei impazziti tutti e due adesso? Ma che è arrivata la tosse pure a lui. Ma che io da 2-3 giorni sono. Che devo fare? Mi sparo se vuoi. Che vabbè, devo fare? Senatore Razzi, però la questione è molto semplice. Qui escono notizie incredibili sulla Corea del Nord, ma chi è che tira fuori queste notizie? Ma guarda, sono tutte cazzate, guarda, io scusa il termine, ma... No, per carità, è giusto. Ma dico io, ma è impossibile dovete che dicono. Ma veramente dire bugie così grosse, va bene che. È carnevale, magari ogni scherzo vale, però non è carnevale. Ma adesso non è carnevale, sì. Che dite queste sciocchezze. Ma anche... Io quando l'ho letto, ho chiamato subito l'ambasciatore, gli ho detto scusi, ma che è queste? Ma dice, ma queste sono non è normale questo che dicono. Io non so perché ce l'hanno sempre contro di noi, dice l'ambasciatore, che è pur sempre l'ambasciatore. Senta, io dico una cosa, ma al di là della questione della nazionale, che sembra effettivamente una bufala, Stilager è stato criticato, lei senatore Antò, è stato criticato da quell'esule là, Stilager, vogliamo dire una parola definitiva? Ma io penso che questi si sono imbrogliati, perché lì, cioè, ci sono un sacco di terre, di pomodori, di frutta, tutto coperto. Allora magari hanno visto queste qua, hanno pensato che era l'acre. Quelle sono serre di pomodoro, serre di frutta che c'hanno tutte nelle grandi terre. Ah, tu dici quando fotografano dall'alto i cosi l'acre. Dall'alto. Sono serre di pomodoro, dici tu. Ma sì, ma riguarda che io l'ho girato dal nord al sud, non esiste. E sono tutte ma mica te le fanno vedere a te, scusa. Aspetta, i lager non, i lager non esistono, sono terre. Io non l'ho visto. E dunque sono terre di pomodoro. Sono serre di pomodoro. Serre di pomodoro, l'ho viste grandissime, mai viste ne serre così grande. Guarda, una cosa impressionante. Saranno quelle, guarda, saranno quelle. Saranno ma quelle. Ma saranno però quelle? Aspetta, qualcuno ha ammesso l'esistenza. Ma gli vai dietro anche. Aspetta, qualcuno ha ammesso l'esistenza di campi di rieducazione. Questo può essere perché mi sembra anche una cosa giusta, cioè come giusto, che ha fatto qualcosa e lo fa, gli dà la possibilità di lavorare e di produrre per il paese. Ah, tu dici campi di follia. E automaticamente, lavora per lo Stato e si rieduca. A come deve vivere nella terra, come deve vivere nel paese. Tu dici capito, sostanzialmente, scusa, che i campi di rieducazione sono giusti, andrebbero messi anche in Italia magari. Ma questo farebbe anche bene, perché tenere tutti questi carcerati, che addirittura molti sono tutti stranieri, sì, sono tutti stranieri, perché se vanno nel loro paese non so come vengono trattati. Sì, sì. Almeno, guarda, specialmente le alluvioni, che cose, io lo vorrei andare almeno a pulire i fiumi, a pulire le strade, scusi, che sono strade sportissime, senatore mio. Dici campi di rieducazione in Italia, per così non teniamo sul groppone tutti i carcerati, dici tu, Antonio? Perché lo paghiamo sempre noi, lo paga lo Stato, lo pagano i cittadini. Almeno. Senti, invece questa cosa qui dà una mano con i campi di rieducazione. Io penso che sono contenti anche loro, almeno escono e fanno anche un po' di movimento e si rendono, utili anche al paese. Però bisogna vedere che campi di rieducazione, non è che sono campi sono di violenti, sono posti violenti dove vengono incatenati, vengono obbligati. Ma che cazzo dici, pare? Ma che cazzo dici? Ma siamo alla follia. Ma il campo di rieducazione in ex Unione Sovietica, questo era delle dittature anche in Cina. Ma dai, ma come, ma dai? Ma Parenzo, ma tu lo spari sempre così grosso? Io? Ma qua siamo alla follia, ma stiamo, ma di cosa stai parlando? A proposito del calcio, ma l'elogio dei campi di rieducazione, voglio sapere da Razzi una cosa. A proposito del calcio, non c'è più tempo, fra un quarto d'ora, appena finisci là la prossima punturina, Antò, mi devi raccontare questa cosa del calcio, che è importante questa roba qua del calcio, è fondamentale, perché pare che ci sia l'interessamento per giocatori coreani di una grande squadra, vero? Sì, perfetto. Ma quale maglietta di Radio 24? Cioè, ma io voglio la maglietta di Razzi, la sto aspettando. Cioè, la maglietta di Radio 24, ma che ci devo fare con la maglietta di Radio 24? Voglio la maglietta di Razzi. Aspetta, è un momento, fammi arrivare al dunque, come corri? Corri così anche quando c'hai... piano, le cose vanno gustate, piano, Cruciani, calmati. Ma che cazzo dici, pare? Ma che cazzo dici? What's that sound? Oggi si è saputo, Parenzo, sì? Che la figlia dell'orsa Danica, è reclusa da 3 anni in un posto in Trentino. È rinchiusa in un recinto da 3 anni e condannata a viverci fino alla morte. La sua prigione è un terreno di 3.000 metri quadrati di proprietà della provincia di Trento. Mannaggia. Diviso in 2 gabbie di ferro con un filo elettrificato. Ah, filo elettrificato. Poverina. No, poverina, perché? Poverina. Ah, no. Cosa bisogna dire? Ma ho capito, ma vuol dire, non è che sono degli ma sono degli aguzzini? Sono degli aguzzini? Vuoi dire che in Trentino sono degli aguzzini? No, questo è giusto tenere l'orsa lì un po' protetta con questo, perché allora, se quella in quel posto, in quel posto vengono rinchiusi in Trentino dagli agenti del corpo provinciale. Custoditi, diciamo, perché rinchiusi. Vengono rinchiusi gli animali considerati problematici e irrecuperabili. Appunto. questa anche qua anche noi che possiamo essere considerati problematici assolutamente, assolutamente. Della radio 24 assolutamente, però spero che non ci rinchiudano dentro. Beh, chi lo sa, anche io un po' di filo i lager di Squinzi, cioè chi lo sa, in un campo di rieducazione. Beh, di Radio 24 potrebbe servire. Questa no? È magari, buona, però magari poi diventiamo un po' come Barigioni, no? Cominciamo a essere un po' più educati. Ci potrebbero me... io credo che ci servirebbe andare in un campo di rieducazione di Radio 24, sai? Poi c'è una Treu che ci prende. A te servirebbe. No, anche a te. C'è una Treu che ci porta, no? Ma un campo di rieducazione. Il campo di rieducazione. Questo è buono. Il campo di rieducazione, sì, di Confindustria. Servirebbe, servirebbe. Sì, sì. Vabbè, comunque, oddio, questo anche qua adesso gli è preso come a Razzi. Gli è preso la roba. Se uno sta male, cioè, ho capito, ma non è che potete romperci la palla a noi. Razzi fa il senatore. Camusso, chiamala Camusso. No, aspetta, fermo, che Daniz è fondamentale. Dal maggio del 2011, la figlia di Daniz, che in termine tecnico viene definita da questi qua della polizia provinciale DJ3, che sarebbe Daniz, credo, è il segno di riconoscimento della madre. Senti che cosa dicono questi qua. Dico, non ci sono le condizioni per liberarla, è troppo pericolosa, dobbiamo tutelare il progetto, quello che di ripopolamento della zona, e la salvaguardia della popolazione è un passaggio fondamentale. Cioè, questa è pericolosa, è inutile che questi della LAB e altri rompano i coglioni. Hanno scoperto solo adesso che la figlia di Daniz è rinchiusa lì, e lì deve rimanere. Ma sono più importanti le persone o la figlia dell'orsa Daniz? Ma ragazzi, non scherziamo, dai. Oh, intanto Grillo ha appena detto che, beh, queste cose mi fanno godere assai, però, queste cose mi fanno godere assai. Popolo della Zanzara, fermi. Grillo dimostra di essere trasversale. Reddito minimo e lotta dura contro l'immigrazione clandestina. I cosiddetti clandestini, dice Grillo, vanno rispediti da dove venivano. Guardate che lo fanno anche in Germania, eh? Beh, questo sicuro, guarda, certamente non si pigliano la gente così facilmente come facciamo noi, eh? TG3, poi torniamo con la Mater Day, dove c'è il senatore di Forza Italia Razzi, che ha da poco fatto una puntura e poi una radiografia che gli ha diagnosticato una bronchite. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli per TG3. E ascoltate cosa deve dire. Svolta di Ankara a favore dei curdi contro l'ISIS, i peshmerga iracheni potranno attraversare il confine, aerei americani lanciano armi ai curdi in Siria. Grillo caccia con un secco post scriptum sul blog i quattro attivisti che occuparono il palco del Circo Massimo, ma loro non ci stanno, chi l'ha deciso? Renzi alla direzione PD, va bene il dissenso, ma non siamo un club di anarchici o di filosofi, profondo rispetto per la manifestazione della CGIL. E la CGIL dice faremo il pieno nelle piazze con il corteo contro il Jobs Act. La Camusso al governo, 800.000 posti di lavoro, lo diceva anche Berlusconi. Assemblea ad Olbia dei lavoratori di Meridiana che rischiano il licenziamento. Domani a Roma incontro al Ministero per salvare 1.600 posti. Guarite, l'infermiera spagnola e il medico norvegese contagiati dall'Ebola. La Nigeria annuncia di aver sconfitto l'epidemia. Dal virus si può guarire. Il braccio di ferro tra il sindaco di Roma Marino e il prefetto che chiede l'annullamento delle unioni civili, la battaglia di Paolo e Lorenzo per ottenere la licenza matrimoniale. Scusa, Parenzo, stavo riflettendo su una cosa, no? Tu sì, che appoggi la cosa di Renzi degli 80 euro, moltissimo. No? No, no, va bene, d'accordo, ma per carità, mica è un delitto. Però chi ha fatto un figlio un mese prima che entri in funzione, se mai entrerà... Se la piglia nel sottocoda, come no, si dice in gergo. Io ho detto anche in quel posto, diciamo, si può nel dire. Sottocoda. Cioè, se la piglia in quel posto, quello che vabbè, fa... Ma metti... questo per ma qualsiasi ho capito, norma... Ma chi ha fatto un figlio un anno fa? Ma ho capito, se fai una norma... vabbè, ho capito, vabbè, amico un mio, cazzo, ma... scusami. Ma no, ma per qualsiasi norma, dice, allora gli esodai, allora ah, quelli no, però, che sono venuti al mondo nel 70... Ma è così! Però, fermi tutti. Senatore oggi, Razzi, senatore? Sì, prego. Come andiamo? Buonasera. Va meglio? Sì, dico, adesso sono rientrato al Senato. Ah. Devo fare le ricette per le medicine che mi ha prescritto. Ah, beh, certo. Ma certo, non devi fare, te le hanno fatte. Cioè, devi andare in farmacia? Eh sì, certo. Sì, devo andare in farmacia, sì. Ma sei già andato in farmacia? No, adesso devo andare. Ma chi te la... Senato, ma le punture chi te le farà? Supposte deve mettere. Aspetta, Me lo farà il medico qui al Senato. Ma tua moglie non è capace? No, mia moglie sta a Pescara. Ah, sta a Pescara. Senti una cosa, ma che succede nel calcio? Cioè, dimmi che qual è il progetto? Chi è interessato a giocatori della Corea del Nord? Guarda, c'è anche diverse squadre, tra queste anche il Chievo Verona che è interessato. Chievo Verona che è interessato a questi ragazzi, che adesso arriverà 15 ragazzi da 16 e 17 anni. Sì. È interessato a tesserarlo loro. Ah, il Chievo Verona, il presidente in persona? Sì. Domenica siamo lì, siamo invitati, ma chi? A vedere chi siamo? Con l'ambasciatore della Corea. Sì. Andiamo prima a vedere il Pescara Carpi sabato e poi andiamo a Verona la domenica mattina, siamo a Verona a vedere Chievo Verona a Genova. Ah, cioè tu porti l'ambasciatore della Corea del Nord in tribuna allo stadio del Verona, invitato dal presidente Campedelli, o sbaglio? Sì. Invitato dal presidente Campedelli. Ma non ho capito, già hanno visionato qualche giocatore questi qua del Chievo? No, loro c'è questo di direttore sportivo Alessandro Dominici, che sta a Corciano vicino Perugia. Sì. È lui che l'ha selezionato lì in Corea. Sì. L'ha scelti lui, che sono dei fenomeni, ha detto dei veri fenomeni, insieme a un allenatore portoghese. Sì. Che sta lì a Corciano, e dicono che sono i veri fenomeni, questi lo vogliono far conoscere anche queste squadre. Ma scusa, ma già è venuto un direttore sportivo, qualcuno del Chievo, a visitare questi qua, a vederli? È venuto a parlare o no? No, è venuto da me a Pescara a parlare un certo Marco, non mi ricordo il cognome. Sì. E mi ha invitato lì appunto domenica. Ma l'ambasciatore che c'entra con questi giocatori? Ah, perché è tutto controllato dallo Stato comunque. Beh, certo. Beh, è chiaro. Deve vedere e visionare anche l'ambasciatore dove va, dove non va, non si mancherebbe altro, mi sembra una cosa giusta, deve fare come papà e mamma. È un regime, per forza. No, è lui che Parenzo. No, non è un regime, no. No, è che è una cosa normale. Se tu mandi i tuoi figli e vuoi essere sicuro dove va, allora. Beh, diciamo i figli sono dei passi della madre. La mamma e il padre non viene, allora c'è l'ambasciatore controlla. L'ambasciatore se ne occupa. L'ambasciatore controlla, siamo tutti più sicuri. Campi di rieducazione. Ma scusa un attimo, la pena di morte, no? Ma mi sa che ci dobbiamo mandare pure Parenzo a campo di rieducazione. Quello, no, grazie. Sì, se continua così mi sa che ce lo dobbiamo mandare pure lui. No, grazie, sto bene qua. Senti una cosa, ma Campedelli è guarda come sta male, no, mannaggia. Ma mettiti la supposta subito. Non posso, oggi non mi sento in forma di chiacchierare. Lo so, però un'ultima cosa te la voglio chiedere, poi ti lascio perché ti devi fare le punture. Guarda quest'altro, ragazzi, ma non è che si può continuare così con le dalla tosse, chiudiamo tutto, tiriamo giù la Claire, tra Razzi e te, veramente sei come tipo Lazzaretto questo qua. Io voglio capire una cosa, ma Razzaretto. È il Razzaretto. Oh mamma mia, che battuta. Il Razzaretto, che battutona. Che stupidaggine che ho detto. È venuta fuori male questa cosa terribile. Vabbè, comunque la pena di morte non esiste, tu dici. Sì, esiste, però esiste anche in altri paesi, questo è il punto. Ma scusa, alcuni mi dicono ma lì c'è la bomba atomica. Ma quanti paesi ci sta la bomba atomica e nessuno dice niente? È mai possibile che ve la pigliate sempre questa Corea? La pena di morte ci sono a tanti stati e ve la pigliate sempre con la Corea. In tanti stati, non ha guardiamoci tanti stati. Guardiamo pure gli altri stati. Guardiamoci dentro. Guardiamo. Allora che fa? Ma noi dobbiamo cercare di ammorbidire il sistema solo dialogando. Probabile che riusciremmo anche a levare la pena di morte non solo lì ma anche altri stati. Senti una cosa, ma Campedelli ci parlerà con l'ambasciatore coreano? Sì, naturalmente, certo. Sì, sicuramente, parla molto bene italiano l'ambasciatore della Corea del Nord, ospite in tribuna d'onore a Verona domenica. Se no le faccio io la traduzione ma in dialetto abruzzese. A presto, ciao Anto, ciao, rimettiti. Ciao, buonasera. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti, Padania bella e libera, guardavano. M'han detto che sono andato a trovare il dittatore Putin, io farei cambio fra Renzi e Putin domani mattina, è sicuramente molto più democratico quello che sta a Mosca rispetto a quello che viene da Firenze. non c'è il minimo dubbio. È un paese di merda quello che dà 200 euro a un disabile e 1200 euro a un immigrato clandestino. I soldi vanno a loro, non ad altri, a loro. Sali Padania, fai vedere quanto è bella. Vabbè, fin qui tutto, come dire, opinabile, no? Cioè, battaglia politica, comizio, quello di Salvini sabato a Milano, si può discutere, bandiere ovviamente. Sì. Vabbè, ma si può discutere di tutto, è politica. Poi io critico Salvini quando ha portato ancora una volta quella bambina di 4 mesi sul palco. Cioè, già aveva sfruttato questa cosa su Facebook, dove diavolo era, su internet, sì, su Facebook. Però i bambini non si toccano, non si utilizzano, anche se i genitori sono consenzienti. I bambini comunque non si portano ai comizi. Abbiamo criticato tante volte la sinistra quando l'ha fatto. Sì, Berlusconi. Sai che su questo sì, una paradossalmente, diversa, paradossalmente e mi tocca tu sei. Difendere, ho capito, difendere però Salvini, i bambini non si portano a 4 mesi, dai, su con i bavaglini. Ma con su scritto mesi, stop invasione. 4 mesi o 4 anni? Quanto anni? 4 mesi, è una bimba di 4 mesi al bavaglino con scritto stop invasione, eccetera. Lo dico anche io, una cosa del genere. Povera bambina. Ma dai, 4 mesi non si porta. Per il messaggio, insomma. Non si porta sul palco. Che bisogno c'è? Ci sono tanti modi per fare una battaglia politica. È vero, i bambini dicono perché ci potrebbe essere una cosa, no? arrivano i clandestini, i barbari, l'invasione, e sì, tolgono è vero. Respiro e vita ai nostri figli, cioè, certo, nella retorica certo. Ci può essere anche questo, però che bisogno c'è di portare su un palco una bambina di 4 mesi? Se ne può fare tranquillamente a meno, dico io. Libertà. Dov'è la gloria? Questa piazza è anche la piazza di questa mamma e di questo papà che arrivano da Trento e di questa bimba di 4 mesi, perché se siamo qua, siamo qua per il suo futuro, di far vedere il sorriso dei nostri bambini, e preferisco questi bimbi a quelli costretti a cantare le canzoncine per Renzi da maestre che dovrebbero essere licenziate. Beh, scusa, però se uno fa la retorica sui bambini di Renzi e l'attacco sui bambini di Renzi, che ci sta, anche noi l'abbiamo attaccato Renzi quando ha utilizzato queste cose, è un amico mio, però è la stessa cosa. Facciamoci tutti una bella lega, va? Dai. Cioè, che vuol dire? No, la battuta di Giorgio Gaber. Però c'era anche Efe Ball, c'era anche la mitica Efe, amica mia, ti abbraccio, capito. Ti abbraccio anche fortissimo. Anche lei legaiola, anche lei legaiola. Beh sì, siamo al top. Comunque Milano è una città tollerante, una città aperta. Sopporterà anche la Lega Nord. Vabbè, ho capito, che vuol dire sopporterà la Lega Nord? È la vita che c'è la Lega Milano. Vedere quelle bandiere nere di Casa Pound, vedere mamma, questi sei fissato, davanti sei fissato. Ma sì, perché voglio dire, uno dice, cazzo, abbiamo visto tutto, il Dio Po. Dice, vabbè, passa il Dio Po. Ma quelli sei con le corna, il Monviso, la secessione, la devoluzione, tutto quello che vuole. Vabbè. Le tosse al Roma, ladrone, e Renzo. Però, amici miei, quello che abbiamo sentito ieri, no, cosa? Non c'è mai fine al ma peggio. Successo? Mai. Ridateci la Padania libera, la secessione, anche il Monviso. Ma perché? Financo quella cazzo di ampolla, anche quella ampolla, ridateci l'ampolla. Ma tu non vuoi vedere quelli di estrema destra, più ho capito. Più innocua l'ampolla di quelle fregnacce. Fammi che abbiamo sentire Efeball, fammi sentire Efeball. Sobrio e moderato, giornalismo sobrio e anglosassone. Ah, fammi sentire Efeball, dai, che è leghista e dice basta con questi diritti ai gay, basta con sto matrimonio, non me ne frega un cazzo, io sono trans e pure prostituta. Io adoro Lega da sempre perché condivido le loro idee. Sui gay, sugli immigrati? Gay non mi sono mai sentito, non ho mai fatto battaglia per i gay. Sui migrati sì, soprattutto per riapertura delle case chiuse sì. Lei da dove viene? Turchia. Quindi è immigrata anche lei? 15 anni fa. Paura che la caccino? No, io sono italiano da 9 anni. Allora andiamo a Roma, Alessandro, buonasera, 800-24-00-24, Alessandro. Cruciani, buonasera, speriamo dimmi. Mi dà un po' di tempo, purtroppo ho 80 anni, però non è che sono stupido. Ma chi ha detto che è stupido? Non è che se uno ha 80 anni dire, è stupido, 80 anni dire, 80 euro, 80 anni 80 euro. Già, esatto, no, a me non ci stanno gli 80 euro. No, per lei allora, no, perché non è neomamma, non sarà neomamma quando ci saranno. Ecco, allora chiedo a Cruciani e poi casomai il suo parere mi fa una grande cortesia. Dai, dimmi, dai, forza. L'ammiro molto e anche il parere di Parenzo per ultimo. E Crucia, adesso io devo dire, no? Ha detto di dare gli 80 euro alle neomamme. Sì. Potrebbe essere giusto. Ma sta neomamma potrebbe essere una che lavora e prende uno stipendio di 1200 euro. No, beh, ci e sono il marito che ha il marito che è il presidente 2005. Sì, ma credo che ci sarà una il provvedimento ancora deve essere, come dire, articolato. Sì, ci sarà una distinzione tra quelli che guadagnano tot soldi e altri, spero, perché altrimenti sarà una follia. Però, è vero che Berlusconi diede 1.000 euro a tutti, mi dicono, eh? Però io non arrivo a 600 euro. Vabbè, allora che c'entra? Anni, se non che mia figlia a 45 anni a marzo è rimasta sola. Però Alessandro, scusi, adesso questo qua arriva una lira e io quei 600 euro devo mantenere anche a lei. E allora? Ma a me pensionato, chi ci pensa? E vabbè, lo so, e lei ha ragione, che devo fare? Pure a lei, siccome qui siamo all'annunciti, alle promesse, ai soldi dati così, fra poco ci sarà ai pensionati con meno di 600 euro daremo 80 euro, 80 euro a te, 80 euro a me, 80 euro pure a lei e siamo a posto. Andrea da Vicenza, grazie. Andrea. Buonasera Cruciani. Vai, dimmi. Un po', niente, io stavo ascoltando il discorso di ragazzi prima, ma mi viene a pensare una cosa: noi in Veneto quando sentiamo una persona che parla così diciamo ma questo dice un sacco di monate. Ma Razzi quando va in Corea cosa gli fanno vedere? Perché secondo me lo portano. Ma sono viaggi organizzati, amico mio. Sì, ma dai, ma basta andare su YouTube, prendersi un po' di video della Corea del Nord, non si rendete conto di cosa c'è veramente in Corea. Ma Razzi è fuori dal mondo, cioè vive una realtà che è completamente fuori. Beh, Razzi, Sì, vabbè, stai parlando di Winston Churchill o di Einaudi? Non so, stai parlando dell'amico Razzi, cioè dice Einaudi. Razzi mi sembra di avere qualche reminiscenza, qualche ricordo di Scilipoti, ve lo ricordate, no? Va bene, Andrea, grazie. Tommaso Pescara, buonasera, Tommaso. Salve Cruciani, una domanda, ci sarà la legge sul matrimoni fra gay anche forse Pescara? Dicono a gennaio, forse. Come in che senso a Pescara? Beh certo, non è che valida solo per alcune regioni e non in altre. No, ho sbagliato. Scusa. Comunque c'è un tetto di 90.000, cioè sotto i 90.000 si prendono gli 80 euro, sopra i 90.000 no, sembra. Poi anche questa cosa assurda, chi ha 90.000 001 euro se la piglia in saccoccia, ma è una cosa folle, bisogna cambiare le cose, non regalare soldi, non regalare quattrini, cose strutturali, abbassamenti di tasse veri per tutti. Ho capito, ma intanto 80 euro, ma una che vuol dire intanto? Ma è roba da Achille Lauro, è roba da Achille Lauro. Quanto costano dei pannolini per i bambini? Non ma lo sai. Questo è un ragionamento assurdo, bambini, ma certo, ma anch'io le ho comprati. Hai mai pulito il sederino alla tua figlia? L'avrà fatto la servitù, come ma dicevi sempre tu una volta, no? Le tue decine di filippini. Dici, scusa, se da togliere Cruciani, puli le sedelle. Dici, sì, fai tu, perché tanto io traffico. Come traffico? Cioè il sedere da pulire la bambina. Traffico, non mi interessa. Come non mi interessa? La bambina è poi al sedere sporco, come si fa? Allora ci vogliono i pannolini. I pannolini costano. Ma perché me lo deve dare il governo? I soldi. Non è il governo che dà i soldi. Quanto costa il latte in polvere? Non sai niente. Il latte in polvere. Ma guarda che sei incredibile. Io lo so, costa 26 euro il latte in polvere e mi dura 2-3 settimane. Ma i soldi deve, non te li deve dare il governo. Il governo deve fare le riforme strutturali, non regalare soldi. Ma se a destra manca. In attesa le riforme strutturali, intanto aiuti delle famiglie, no? Tommaso, traffico. Non ho capito qual è il punto. Tommaso. La domanda è questa. Quando due gay vorranno sposarsi, si chiederà una certificazione se sono veramente gay, perché ci può sempre essere il turbo che no, questa ha ragione però su questo. Ci sono gay, ma questo è matto. No, Tommaso ha ragione, se due eterosessuali vogliono unirsi in matrimonio per motivi X. Per un fatto economico, ascolti, ma cosa c'è? Beh, non è che è difficile che possa convenire. Ma cosa vuol dire? Come no? Vabbè, c'è il matrimonio, uno deve dare lì scrivere sono sposato con quello, poi se uno è eterosessuale non è che si sposa con un altro eterosessuale, scusami Tommaso, poi alla fine si vorrà sposare con un etero o con una donna o no? No, non avete capito allora. No, soltanto per lei che non è chiaro. Abbiamo capito la follia, scusami. Io ho 70 anni, giovani 20 anni, lo voglio agevolare, io fra qualche anno andrò via. Ah, ho capito, cioè lei dice si potrebbero sposare gente di, cioè un vecchio con un ragazzino, dici? Esatto, e sia la reversibilità della pensione che... Ma questo può succedere anche nei matrimoni tra gli eterosessuali, cioè non è che è così strana sta cosa, anche nei matrimoni tra gli eterosessuali ci possono essere delle truffe, posto che sia conveniente sposare, ma questo qua oggi è malato, che dobbiamo fare? Vabbè, ciao amico mio, ciao. Ciao, ci vediamo, ciao. Insieme a David Parenzo in studio a Roma, il deputato del Partito Democratico Khalid Chaouki, proprio nel giorno in cui Grillo spara a zero sui clandestini e dice visita obbligatoria per l'Ebola e per altre malattie e rispediamoli se non sono profughi tutti a casa. Chaouki, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Si va avanti in un clima che certamente non è semplice, siamo ormai... alla propaganda seminazista, perché cominciamo queste cose le ricordo insomma in un'altra era geologica. Cioè lei sta dicendo che la propaganda di Grillo è di questo tipo? Si sta riferendo a Grillo? Beh, che associava le persone alle malattie o portatori di malattie come Grillo o Salvini, sicuramente sta seguendo quella strada lì. Anche Salvini, anche quella piazza della Lega, quindi ha toni da anni 30 da nazismo. Da notte dei cristalli. Assolutamente sì, perché poi qui aggiungiamo le malattie, aggiungiamo il terrorismo, dimenticando Mengele, manca solo Mengele praticamente, no? Il dottor Mengele. No, poi dimenticando che nel frattempo ci sono 5 milioni di immigrati che vivono per le strade, che rischiano anche sulla loro pelle reazioni anche di aggressione e di paura. Voi mettetevi nei panni di un lavoratore che ha... Dici che un immigrato deve avere paura dopo la manifestazione della Lega di ieri, sì? Beh, in alcuni casi sì, in alcuni quartieri, perché se tu hai un immigrato, mi metto nei panni di un immigrato nero, sì, nigeriano, sì, magari, sì, che prende un autobus in questo momento qua, e secondo voi una signora, un'anziana, una pensionata non deve temere dopo la campagna di propaganda che associa gli immigrati all'ebola? È ovvio, e io la comprenderei anche, no? Cioè che fanno? Signora... Vanno lì con l'ombrellino, gli danno l'ombrello in testa, che fanno? No, ma questo magari no, ma sicuramente prima di dargli la mano ci pensano due volte. Cioè siamo ormai a questo livello di terrorismo mediatico che rischia davvero di alimentare un razzismo che per fortuna speravamo non potesse mai esserci, diciamo, che invece questi signori stanno alimentando. Allora ricordiamo, Khalid Chaouki è il primo deputato, possiamo dire così, di religione islamica entrato, certo, nel Parlamento italiano. Anzi, io direi salam aleikum, voglio salutarlo come sì, salam aleikum. Shalom. Cioè tu l'hai salutato salam aleikum, lui dovrebbe dirmi aleikum salam, no? Sì, ma che vuol dire? Spiegate alla gente che normale. Che la pace sia su di voi, quindi siamo salam aleikum, che la pace sia cara. Bene, ma io faccio la parte dell'ignorante, per cui spiegate alle persone che ci stanno ascoltando. Salam, tu l'hai salutato aleikum, in che modo? E lui arabo, salam aleikum. Okay, aleikum salam. E tu l'hai salutato invece in ebraico, giusto? E lui mi ha detto shalom in ebraico. Grande, certo, gesto di pace. E va benissimo. Io però voglio capire tu una cosa. Tu dici traffico invece. No, io non dico traffico. No. Io dico... Ma gli omosessuali come le mettiamo lì in Islam? Così poi questo adesso glielo chiedo. Però voglio chiedere, ma lui è a favore degli omosessuali? Immagino che sia a favore del matrimonio gay, no, Khalid? Sì, sono a favore delle unioni civili alla tedesca, come Renzi, già insomma, stato spiegato dal nostro Presidente del Consiglio. Allora, però Khalid, voglio chiederti una cosa. Questa roba qui però fa parte della politica, non la possiamo mettere sull'estremismo, sulle cose. Cioè, quando Grillo dice rispediamo a casa i clandestini, io francamente devo dirti la verità, che al di là della questione dei toni, delle cose, delle parole che fanno parte... Diglielo pure quello che io pensi. Io solo penso, ma figurati se non glielo dico, io affronto le cose in maniera limpida e trasparente. Io sono assolutamente a favore di questa roba qua. Cioè, i clandestini, come succede in qualsiasi paese civile, vengono presi e in maniera ritorna con sta tosse, vengono presi, ovviamente mi devo preoccupare, no all'ebola, forse all'ebola, non lo so, Khalid. Però sì, vengono presi e rispediti a casa in maniera gentile, senza ma qui non stiamo parlando di clandestini. Cioè quello che sfugge è che rispetto ai primi anni 90 qui ormai il 99% di chi arriva scappa da Kobane, scappa dalla Siria, dall'Eritrea, cioè ormai è acquisito, cioè il 99% di chi arriva sono persone che stanno fuggendo dalla guerra, quindi confondendo i termini, giocando con i termini, cioè sono clandestini, si nega il fatto che ormai invece siamo di fronte a centinaia di persone, ma milioni, cioè ma noi tutti ci preoccupiamo... si possono appellare a una guerra, chiunque si può appellare, lì c'è una guerra, quella tribù è contro quell'altra tribù, eccetera. Ogni paese dell'Africa ha un problema, o dell'Asia può avere un problema, allora accogliamo tutti, secondo te bisognerebbe accogliere tutti, di la verità. No, io dico nel frattempo noi dobbiamo porci la domanda, le barche che sono nel Mediterraneo le lasciamo affogare o no? Io penso di no. Salvini deve dirci la sua, perché alcuni suoi compagni di partito hanno detto che a loro non gliene fregava assolutamente niente. Quindi noi intanto decidiamo su questo aspetto, no, che per me è cruciale. Poi dopo è chiaro che diciamo va fatta la prevenzione in Nord Africa, dove oggi c'è un caos, in Libia bisogna predisporre dei campi, allora, di prima accoglienza. Ti faccio delle domande molto chiare. Allora, secondo te la Lega, non solo dopo la manifestazione di sabato in generale, è un per quello che dice Salvini, per questa nuova linea eccetera, non che quella prima fosse moderata, ma comunque è un movimento apertamente razzista? Secondo me sì, cioè non c'è nessun tipo di dubbio. Cioè in altri paesi europei quei partiti lì sono stati condannati, e poi in Italia alcuni esponenti condannati. Andrebbe messa fuori legge la Lega secondo te? Beh, chi pronuncia quel tipo di frasi sicuramente va processato. Quale frase? Beh, lui dice quello su ebola e immigrati, che dice, no? Che dice oggi appunto che gli immigrati portano l'ebola, quella istigazione all'odio, perché tu di conseguenza dici se avete davanti un immigrato state attenti che porta l'ebola. Ma nessuno dice gli immigrati portano ebola. Beh, questo è quello che hanno detto, ha detto Grillo, l'ha detto Salvini. Poi lui è molto furbo, perché molte volte in televisione cerca poi di, diciamo, di rendere più moderate quelle idee rispetto ai suoi tweet, che possiamo leggere se volete adesso, che sono tipo leggi in alcuni che hai conservato. Per condannarlo basterebbero questi tweet, tu dici, base alla legge della Diciamo legge la verità, Mancino. Galinde, però devi essere molto chiaro su questo, perché può essere anche un elemento di discussione. Tu pensi che il leader della Lega sia un leader razzista va messo fuori legge dalla politica, giusto? Io credo che quel modo di fare di Salvini non è un modo, è un modo criminale di condurre una battaglia politica. Cioè, io posso, questa è una valutazione politica. Io posso discutere con Salvini se lui pensa che entrano 10, 20 o 30 immigrati e come, ma non posso discutere con uno che fa una, diciamo, un'azione scientifica di criminalizzazione di milioni di immigrati. Noi davanti alle scene dell'Iraq e della Siria, lui praticamente racconta una piazza del Duomo, davanti al Duomo, tra l'altro, simbolo della cristianità, racconta che tutti quelli che arrivano sono dei clandestini. Questa è istigazione all'odio, e in altri paesi europei quell'istigazione all'odio è stata punita dai tribunali, dalle corte europee. Secondo te andrebbe punito dai tribunali? E vuol dire, il movimento Lega Nord, secondo te, è un movimento democratico o un movimento apertamente contro la Costituzione? Questo che ti voglio chiedere. Ma io penso che se noi stiamo alle frasi di Salvini, è un movimento che è sicuramente contro i valori della nostra Costituzione italiana. E allora tu la fuori legge. Questo non c'è aspetta... anche un immigrato adesso che fa responsabile dell'immigrazione. Dico, c'è differenza tra chi in modo scientifico fa questa propaganda e chi magari in buona fede li vota perché pensa che sia una soluzione per l'Italia. Chi fa questa propaganda andrebbe messo fuori legge. Secondo me non può. E Tony Iwobi, l'immigrato. Esatto, hanno scelto pure un nero come responsabile degli immigrati. Ma io l'ho incontrato, devo dire che l'ho visto anche molto imbarazzato. E in qualche modo, secondo me, lui. È una figurina messa lì così per dire abbiamo il negro nella Lega, questo è il senso. Rischia di essere una copertura a quello che è una propaganda becera che lui per primo ha descritto come un bingo bongo, come uno che meriterebbe di essere fucilato. Quindi io farei girare le battute di Borghezio e Gentilini all'amico Tony Iwobi, e vorrei vedere Salvini, cosa rispondesse. Anche quelle di Salvini a questo punto. Beh, Salvini è il maître à penser, e ormai di questa, diciamo, rinnovata Lega Nord, che cerca in tutti i modi di raccattare qualche voto, ma sulla pelle delle persone, ma della pace sociale in Italia, perché in questo modo si alimenta davvero una guerra. Vabbè, questo l'abbiamo detto, questo l'ho capito benissimo. Però vorrei chiederti, siccome hanno messo, ci sono diversi neri che votano per la Lega, no? Parenzo l'ha detto, c'è un nero che è il responsabile dell'immigrazione. Tony Secondo Iwobi. Te è una, come dire, è uno che la tradisce, figurina, che sono... tradisce i suoi valori, tradisce anche la sua, anche i suoi fratelli, forse, i suoi fratelli, no? O no? Beh, uno può essere, cioè figurati, gli italiani in America sono tra i più conservatori, perché a maggior ragione, essendosi finalmente inseriti bene, hanno bisogno di tutelarsi dalle nuove immigrazioni. Quindi questo è può succedere. Può succedere, però capisco se un immigrato milita in un partito civile di destra in tutta Europa, ma è chiaro che trovarmi... Cioè si dovrebbe vergognare lui? Ma è questo, io non sono nessuno per dirglielo. Io è un collaborazionista, che ne so, potrebbe essere definito come un collaborazionista. No, io l'idea è di stare attento dal non essere oggi usato come foglia di fico di un razzismo che appunto cerca di farsi bello mettendo persone così. E quindi, insomma, l'appello più che altro è Si dovrebbe dimettere dopo quest'ultima cosa, si dovrebbe dimettere da quel ruolo, secondo te? Beh, secondo me è il minimo in nome proprio di quello che sono i valori dell'uguaglianza, che è sancito non solo dalla Costituzione, ma da quello che è la storia di questo paese, grazie a Dio, nonostante Salvini e la Lega Nord. Ho capito. Khalid Chaouki, Partito Democratico. Allora ragazzi, in giornata avete ospitato un arabo, ho sentito nella trasmissione. Ah, Bossi. Ne ho sentito uno che non è di Milano, si chiama Khalid Chaouki. No, Khalid Chaouki si chiama Bossi. È arabo. Sì, non è arabo, è di origine, radio, sì. Nella mia radio padana non ma ci non è la, questa è Radio 24. È Radio 24, non è Radio Padania. Adesso abbiamo acquistato un bel sito. Ma è quello che sono finiti quei soldi. No, lo dici tu. No, boss, quei soldi lì sono finiti. Non si può più parlare di robe. Ieri abbiamo detto forte e chiaro, abbiamo detto. Ma cosa avete detto? L'ha detto Salvini, no? Padania, che anch'io c'ero lì dietro, ogni tanto sbucavo, anch'io dicevo Padania, cristiana, mai musulmana. E voi adesso avete chiamato questo Giauchi, non è italiano questo. Ma sì, è italiano. Ma dove è di origine, qui? Credo marocchina, dove non lo so. Guarda che l'altra volta ti ho aperto la porta, quando stavi entrando in aula. Ma dai, perché ero. Perché mi hai aperto la porta veramente? Ti ho aiutato per entrare. Ah, sono mezzo ricco. Ma scusi, l'arabo, ecco, l'arabo deve aprire la porta e basta. Cioè, deve fare il cameriere, dicevo. Non è possibile che Renzo dovrebbe fare il deputato. No, l'arabo, te lo dico io. Renzo, scusi, ha i titoli di studio. La memoria corta, boss. Ma non ho capito, vi siete incontrati? Ma chi parla qua? Sì, Radio in aula l'altra volta stava arrivando il segretario, l'ex, il fondatore della Lega. Sì. E io stavo uscendo e ho tenuto la porta per fare. Lo uscì anche lui. E lui come ti ha guardato? Male? Cioè, Khalid? Come ti ha guardato? No. Ho spento il sigaro. Il sigaro gli ho spento. Il sigaro gli ho spento. Come gli hai spento? Sì, ci può, dai. Avete fatto l'invasione, avete fatto anche qui nella mia radio. Nella ma mia. Non è la tua radio, sua radio, comprato, Bossi. L'ho comprata. Ma è Radio 24, lei si sbaglia ogni volta. Non hai comprato. Ma Bossi. L'ho comprata con Bitonci. Bossi era moderato rispetto a Salvini, quindi. Addirittura. Ah, sì. Cioè, era meglio Bossi come leader? Ma dico, Bossi faceva di una concezione sbagliata della divisione dell'Italia. Vabbè, però non era razzista. Beh, no, mischiava tanti temi, cioè almeno più. Esatto. No, non era razzista. Non era a questi livelli, dici. No, non era a questi livelli, così ormai insomma. Ma ti fa paura quindi proprio la Lega? Ma secondo me, ma più che far paura a me, che tutto sommato posso ritenermi tra virgolette un privilegiato, che insomma è tutelato eccetera, mi fa paura per il milione di bambini e ragazzi che frequentano le nostre scuole, che sono italianissimi, che devono appunto sentirsi percepiti da diversi, da appunto, cioè diffonde razzismo in giro per l'Italia la Lega. Beh, questo penso non devo dirlo io, non ci vuole uno scienziato né uno sociologo per dirlo. Appunto, lo stai dicendo tu però. Però io voglio capire una cosa, Khalid, la questione è molto semplice. La Lega, da quello che tu dici, sembra un movimento, cioè ha il 10% quasi dei sondaggi dei consensi in Italia. Cioè, Salvini addirittura aumenta il consenso, questo ti fa ancora più paura. Cioè, può finire anche come, secondo quello che dici tu, cioè, può finire come in Germania negli anni... O no? Beh no, penso che insomma per fortuna gli italiani sono molto più grandi di Salvini, della sua Lega Nord, quindi alle europee se vediamo insomma il suo partito è un partito del 7% se non ricordo rispetto ad altri paesi europei, quindi per fortuna qui tiene la civiltà, tiene la storia di questo paese. Che se no sono incivili, loro sono incivili. Beh, alcuni discorsi sono chiaramente sono barbari, non incivili, peggio, cioè alcuni discorsi riportano davvero a una concezione del, insomma... Senti, però Grillo, quando dice rispediamo la casa, Grillo come lo definisci? Un leader, quando dice queste cose, apertamente razzista, visita obbligatoria, rispediamoli a casa? Beh, dimmi tu come dobbiamo chiamarli. Ma la cosa più divertente è che Gribbles. Poi il giorno dopo, incontrando i suoi deputati in Parlamento, sì, se ne vergognano. Quindi questa è la cosa che a me fa. A me io sì. mi fanno pena e tenerezza. Cioè uno come Di Battista, che è uno considerato diciamo di sinistra, eccetera. Non so come accoglie bene queste parole qua di Grillo. Visite obbligatorie, rispediamoli a casa. Secondo me. Ormai c'è, questa è la cosa che più mi spaventa. Non che loro possano diventare un partito di maggioranza, che non lo saranno. E anche perché il PD ha vinto le elezioni scorse nonostante Mare Nostrum, nonostante tutto, quindi per fortuna insomma, e cosa ti spaventa allora? Quello che mi spaventa è una concorrenza al peggio, giusto, al più becero, cioè questo è quello che sta succedendo, cioè siamo ormai, ragazzi, ma è la politica crisi, questa qua, uno non deve essere per forza d'accordo con Mare Nostrum, non deve essere per forza d'accordo con l'accoglienza, paletti, ci sono dei paletti, delle linee rosse, tu non puoi appunto pensare che per avere un voto in più puoi tranquillamente ma l'Australia è un paese, l'Australia è un paese razzista secondo te? L'Australia ha una politica molto dura, lo consideri un paese razzista? Parenzo sì. Ma lo sai che a Mare Nostrum sono venute decine di delegazioni dall'Australia che ci hanno ringraziato perché delegazioni almeno... di che? I governi sono tutti a favore di una politica durissima. Ma delegazioni di politiche, di associazioni, eccetera, che hanno detto... Che hanno detto? Che in Australia sono per razzisti. Per imparare come facciamo noi. Per presentare in Australia quello che è un modello di minimo sindacale dal punto di vista del valore della vita umana. Cioè tu che stai dicendo che il governo australiano è un governo che è contro i diritti umani quando blocca tutto. Beh, respingere le persone in mezzo al mare non è contro i diritti umani, è contro il diritto internazionale. Cioè chiunque sa sa che se tu sei in mezzo al mare, anche un pescatore lo ma sa. Ma non è che li ammazzano quelli, li portano in un altro posto. La prima cosa che ti insegnano è che se tu sei in mezzo al mare, c'è cioè una persona che ha bisogno di aiuto, tu non puoi fregartene e andare nell'altra parte. Questo è l'ABC della legge del mare. Senti, poi ti faccio ascoltare. Le mense, aspetta, perché c'è una questione delle mense fondamentale. Aspetta, ti faccio ascoltare quello che dice il sindaco di Padova Bitonci sulla questione del sindaco di Padova, della tua città, Padova. Vabbè, perché non lo riconosci come sindaco? Come sindaco della tua città? Ci abitano anche i tuoi genitori lì a Padova. Sono molto bella, ci vado volentieri. A Padova ci sono i tuoi genitori, che il loro sindaco, il sindaco della famiglia Parenzo, si chiama Bitonci. Oh, vabbè, sì. Diciamolo apertamente. Ma io vado a Padova anche se c'è Bitonci. Beh, meno male, ci mancherebbe altro che boicottassi Padova. No, per carità, mica sono così. Sentiamo Bitonci su e clandestini Ebola. Anzi, chi arriva con l'operazione Mare Nostrum deve arrivare già con i certificati sanitari e tutti i documenti a posto. Stiamo vedendo cosa succede in Spagna, in Italia è meglio fare prevenzione, quindi come sindaco per le persone ho firmato questa ordinanza, per tutti questi clandestini che arrivano con l'operazione Mare Nostrum e quelli che vengono individuati poi nel nostro territorio, ne abbiamo individuati 6 l'altro giorno, verranno fatti degli accertamenti di carattere sanitario. Cioè praticamente hanno trovato 6 clandestini o presunti tali e gli hanno fatto le analisi. Questa come la chiama lei, Ciauchi? Questo è razzismo, cioè non c'è un'altra parola. In Italia capisco che è una parola che un po' sembra strana, sembra che riguardi... Cioè cosa bisogna fare per essere razzisti? Io non... Questo cioè il sindaco di Padova, secondo lei, è apertamente razzista? Si dovrebbe intervenire sul sindaco di Padova o no, secondo lei? Non lo so. Beh, sicuramente ci saranno già state, io spero ci saranno delle richieste di intervento della magistratura, perché cioè gli effetti di questa roba qua, a parte che tutti sanno che l'Ebola, rispetto al viaggio che fanno un immigrato, non riuscirà purtroppo neanche ad arrivare vivo in Italia. Allora, cioè, questo, cioè, dire dobbiamo analizzare le persone sulla base del colore della pelle, questo è razzismo. Fino ad oggi i malati di Ebola sono state delle infermiere. Ma di cosa parliamo? Cioè, ragazzi, tu trovi il sindaco di Padova. Ma allora cosa arriviamo? Il sindaco di Padova fa il suo solo propaganda. Se non lo fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute, il sindaco di Padova fa solo propaganda. Senti Khalid, ma tu sei ancora solo convinto propaganda. Che nelle scuole italiane debba essere inserito nella mensa un menù per quelli di religione islamica? Ma io penso che debba essere inserito un menù per i musulmani, per i vegetariani, per gli ebrei, per tutti. Sì, così impazziamo, diventiamo pazzi. Come impazziamo? Così, i vegetariani, scusa, che non mangiano carne? Non hanno diritto ad avere un pranzo? Ragazzi, chi ha intolleranze alimentari, scusa? Vabbè, ma allora chi ha la prostata? Che vuol dire? Tu, quello è un problema che te lo puoi curare da solo. Chi è celiaco? Dai su ragazzi, ma tu veramente pensi che in ogni mensa italiana ci debba essere un menù islamico? Io penso di sì. Khalid, poi lui l'onorevole non lo so. Ma io penso che nella scuola pubblica, siccome si chiama scuola pubblica, i bambini iscritti alle scuole pubbliche, quando tu ti iscrivi, ti chiedono appunto qual è la tua, appunto, se vuoi frequentare la religione o meno, qual è se nella mensa hai delle allergie particolari. Penso che siccome per me, e credo che il diritto anche alla propria fede religiosa sia un diritto che deve essere tutelato dalla Costituzione, lo è già, quindi deve essere inserito anche quella che è la specificità rispetto al cibo per i bambini, e ognuno poi deciderà appunto. Allora, se la scuola lo sa per tempo, si organizzerà, e questo è un paese democratico, così funziona negli Stati Uniti, funziona in Canada. Senti, funziona una cosa, in Inghilterra, ma in Francia hanno cacciato da un teatro una donna che aveva il velo, aveva gli occhi coperti. Secondo te è stato giusto, un provvedimento giusto? I coristi si sono incazzati, l'hanno fatta entrare, i coristi si sono incazzati e l'hanno mandata via. È successo a Parigi l'altro giorno. Ma io sono contro il velo integrale, penso che non in Europa non debba essere tollerato. Tu sei sposato? A velo coperto, quindi sono... Insomma, tu sei sposato? Sì. Tua moglie che cosa porta? Il velo, controvelo, altre cose? Mia moglie porta il copricapo, quindi porta il velo normale, coprendosi i capelli. Solo i capelli? Quello che si copre, quello come le suore. La sua libera scelta, come le suore. Si copre i tuoi capelli. Cioè fisso, quando va fuori si mette il foulard, diciamo. Sì. Ma come mai? Ma questa è una sua libera scelta, come tantissime donne e ragazze nel mondo musulmano. Le sue sorelle hanno deciso di non portarlo, tra l'altro, quindi è una sua scelta, perché pensa appunto che sia un'interpretazione giusta della sua religione. Se ti sei pentito perché come di... nell'ebraismo le donne religiose si coprono la testa in segno di rispetto, perché i capelli sono una parte intima e considerata e le deve vedere solo il marito. Questa è la spiegazione i ebraica parenti, diciamo, non ti so. Sei o pentito di aver partecipato a quel video di un rap dove intonavi una canzone che a un certo punto era un inno, diciamo, alla, a imbracciare un fucile se non venivano riconosciuti dei diritti? Ti sei pentito di aver partecipato a quel video o no? No, perché a parte che non ho intonato nessun rap, ma era un gesto di vicinanza a un mondo che noi dobbiamo capire e comprendere. Poi capito, che lì però rap... c'era una specie di a un certo punto c'era una si parlava apertamente di fucili o cose di questo tipo. Ma probabilmente alcune strofe erano esagerate, questo va chiesto ovviamente al cantante, al musicista. Penso che se noi dovessimo processare i rappers, insomma, da Fedez in giù, finirebbero molti, insomma, quindi io, per quello che mi riguarda, la mia partecipazione era quella di sensibilità rispetto a un mondo che noi dobbiamo ascoltare con attenzione, sennò il rischio è davvero che si arrivi a, insomma, a conflittualità in futuro. Detto questo, insomma, il rap interpreta i fenomeni sociali a volte esasperando i toni, però quando si parla di fucili e queste cose qua bisognerebbe prendere le distanze. Io credo che, insomma, il musicista non abbia nessuno, tant'è che l'ha spiegato dopo. Cioè, la lotta armata ogni tanto è giustificata, è quello che ti voglio chiedere. No, assolutamente no. Mai, assolutamente mai. Imbracciare un fucile non è mai giusto. No, penso che non lo so, per farti un esempio, tu consideri Israele uno stato razzista? Cioè, consideri che Israele sta facendo un genocidio nei confronti dei palestinesi? No, penso che la guerra a Gaza è stata sicuramente una guerra che, insomma, ha fatto tante vittime civili, e questo ovviamente, come in tutte le guerre, non è tollerabile. Grazie Khalid Chaouki, grazie, buona serata. Grazie. Le odio le zanzare, ci massacrano. Un bacino grosso e un abbraccio forte. Ciao, ciao. Paolo da Trento, buonasera Paolo. Buonasera. Dimmi, vai. Perché il tema l'avete trattato mezz'ora fa, Danizza. Però io sono d'accordo con Cruciani questa volta, Nove non se ne può accorgere tardi. Repubblica fa un articolo oggi, ma è dentro da 3 anni perché ha dei problemi. Il vero scandalo è l'uccisione della madre di Zadi, dai. Vabbè, ma anche scandalo, quale scandalo? Non c'è nessuno scandalo, dai, su, non c'è nessuno scandalo, basta con questa cosa, questo estremismo animalista. Cioè, No, non sono assolutamente un estremista. Gli sono stati dati, dei sedativi, è andata male, è morta, poi se vogliamo dire che è stata ammazzata, fate tutte le denunce del mondo, non è stata ammazzata. Le hanno dato dei sedativi che non si poteva fare altrimenti, non ha resistito ai sedativi, punto. Adesso c'è la figlia rinchiusa in alcune gabbie perché è considerata pericolosa, punto e basta. Cioè, non si può discutere su questa roba qua, non bisogna liberarla per andare dove? È considerata pericolosa, qui non c'è nessun aguzzino, basta con questa retorica animalista. Paolo da Brescia, dai, Paolo. Io sono con Gasparri. Ma su che cosa? Ah, sulla vicenda della ragazza... Sì, di Fedez. Di Fedez, dai, sì. È un demente, come fai a scrivere una roba del genere? Cioè, allora non sei con Gasparri? No, ce l'ho contro Gasparri. Ah, ce l'hai contro Gasparri. Ah, ce l'ho, sto con Gasparri. Vuoi parlare di Gasparri per questo dargli parla contro? Come razzi, come cazzo parli, Paolo, scusami. Vabbè, va bene lo stesso. Come si fa a dare a una ragazza di 16 anni e poi controbattere stamattina dicendo vabbè, sotto lei iniziare. Guarda, Gasparri ha sbagliato, perché non si deve mettere a battibeccare con una quisquede popolo qualunque, o comunque con una, cioè, Gasparri è vicepresidente del Senato, può tranquillamente parlare però commette un errore quando si mette, ma non è la prima volta che lo fa, tra l'altro. Davanti a un PC hai anche la possibilità di ragionare prima di schiacciare invio, sì, però quando uno si mette in quest'ottica, cioè di parlare via tweet con chiunque, con anonimi eccetera, e Gasparri lo fa spessissimo, poi è chiaro che ogni tanto ti scappa no, la frizione. D'altra parte, Gasparri viene. Sì, però scusami, no, Gasparri. Io ho un telefono in mano. Ho capito. Allora, Gasparri, però, abbi pazienza. Se viene anche ragionato. Viene anche insultato continuamente via tweet. Cioè, viene continuamente insultato. Dopodiché è vicepresidente del Senato, uno potrebbe dire di avere più contegno. Ma sei in una posizione che cazzo te ne frega se ti insultano, è ovvio che la metà ti insulta e la metà ti vuole bene. Bah no, su Twitter il 90% lo insulta, ma comunque insomma lasciamo perdere questo. Tutto nasce, per far capire chi ci sta ascoltando, da un battibecco tra Fedez e Gasparri. Gasparri ha criticato Fedez perché Fedez aveva parlato male della manifestazione della Lega contro Mare Nostrum. Dopodiché Gasparri chiama Fedez, il rapper dei 5 Stelle, il coso colorato per tutti i tatuaggi che ha addosso, il coso colorato. A un certo punto interviene questa che si chiama Fedeziana, una ragazza abbastanza in carne, diciamo così, almeno così appare nella foto, che scrive: il coso colorato è una persona pulita e umile, a differenza tua che sei sporco e te lo credi perché sei un deputato, cioè sei sporco in quanto politico. Gasparri risponde: meno droga, più dieta messa male, cioè le dà della grassona. Ma in realtà secondo me l'insulto più grave non è tanto più dieta, perché più dieta non mi pare una, cioè scrive anche meno droga, cioè le dà della drogata in sostanza, meno droga più dieta messa male. E vabbè ragazzi, ma di che stiamo a parlare? Dai Paolo, che deve fare Gasparri secondo te? Non dovrebbe neanche chiedere scusa, cioè dovrebbe vergognarsi, nel senso. Non si vergogna, non chiede scusa perché dice di essere stato insultato per primo. Questa è la cosa. Certo, però. Per cui, che deve fare? Si deve dimettere? Che deve fare? All'estero si dimettono per molto meno, qua siamo in Italia. Non esageriamo. Ma dai, appena anche la settimana scorsa in Belgio è uscito il casino perché c'è quella cos'è nel partito che è grassa, quella della sanità, sì, che ha detto che non poteva. Sì. Vabbè, ha dato della grassa a una, in realtà non ha dato nemmeno della grassa, ha detto più meno droga e più dieta, cioè te droghi e sei grassa, dovresti metterti a dieta. Sì, è una ragazza sconosciuta su Twitter, ma ragazzi dai su, cioè. Sì, per carità, secondo me se ci pensa un attimo ha sbagliato, adesso pubblicamente non vuole chiedere scusa perché pubblicamente Gasparri non vuole chiedere scusa perché dice di essere stato insultato per primo, vedrete che tra qualche giorno le chiederà scusa. Manicomio siete voi e mi ci mandate pure al manicomio oltretutto. Allora, ma io no, da manicomio è lei e tutta quanta la squadra che è spaccato a lei. Gasparri però ha detto una cosa, da credo che fosse venerdì scorso, da Mentana, con Luxuria, in cui ha accostato, al di là adesso di questa polemica sulla ragazza in carne, meno droga, più dieta, ha detto una cosa sulla fecondazione assistita, soprattutto quando uno va, no, a ottenere un bambino attraverso un'altra donna, no? Sentite, Mengele, a un certo punto pronuncia la parola Mengele. Parla il fatto di generare una vita, non è che dipende da una legge, dipende dal fatto che l'uomo e la donna possono generare una vita. Non è che l'ha inventato la legge. Ma se due uomini o due donne, a parte che si può, come abbiamo visto, aggirare nel modo di cui abbiamo già parlato. Pure il dottor Mengele faceva le manipolazioni. No, il dottor Mengele faceva le manipolazioni ai danni di persone che non erano consenzienti. Quindi già da quello, e che erano in stato di costruzione durante una guerra in cui veniva utilizzata la deportazione di persone. Non si può, caro bravo Gasparri, Mentana, bravo Mentana, non si che può paragonare Mengele ai dottori che magari fanno nascere un figlio attraverso un'unione di interessi, un incontro di interessi, una donna che fa la gestazione, certamente anch'io pagata. Anch'io reputo questa una pratica molto discutibile, okay, ma mai mi sognerei di paragonarlo al dottor Morte, al dottor Mengele. A parte che in alcuni casi non è pagata, perché in America c'è una roba che non è la fecondazione assistita, ma un tipo di adozione che prevede che tu porti in grembo un bambino e poi lo dai agli altri, no? Come il famoso film. e poi lo dai a un'altra coppia perché non vuoi, non vuoi portare avanti l'educazione del bambino, non vuoi portare avanti questa roba qui. È un tipo di adozione che è stata fatta anche da alcuni amici miei, che io trovo assolutamente, io trovo, quando c'è il consenso delle persone, io trovo tutto, tutto abbastanza, beh, insomma, no, sì, è complicato. Allora andiamo, guarda che a Padova, Parenzo, stiamo ricevendo tante telefonate, a Padova la pensano come Bitonci, vabbè, cioè, e ho capito, ti devi arrendere, la pensano come, ma Bitonci, ma sì, è così, ma molte telefonate, io sono d'accordo con Bitonci, quindi ovvio che, ma sono d'accordo su che cosa, cioè, su sentiamo che Ivan, cosa? Sentiamo trovi Ivan, un immigrato per strada, che fai, gli dici, il fatti sindaco fare il test, si interessa della salute dei ma cittadini, siete, ma che Ivan da Padova, punto e basta, ma che cazzo deve fare un sindaco, non può fare quello, non può deve fare i tombini, le strade, certo, il tram anche, deve fare anche, anche, non occuparsi anche dei migranti che vivono lì e fargli il test dell'Ebola, perché non c'è propaganda pura. Ivan Padova, Ivan. Mamma mia. Pronto? Vai. Ciao, ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao. Niente, volevo semplicemente avere una dire due parole, ecco, neanche due parole, nel senso che mi sembra strano tutto questo scandalo, tra virgolette, scandalo delle parole di Bitonci, ecco, niente di più, niente di meno. Mi sembrano parole normali di un sindaco normale, tra virgolette, diciamo così, però che visto i vari casini che succedono in giro, ci tenga a certe cose, ecco. Non, ma così viene percepito dai cittadini, al di là del fatto che queste cose qui portino ad un risultato o no, dai cittadini viene percepita questa cosa come un sindaco che si interessa, non è che questo qua sta prendendo gli immigrati, furono accettate dagli italiani, non puoi paragonare, non puoi le leggi razziali nel 38, ma non sta mettendo la gente in galera, non sta mettendo la gente in galera, ma che vuol dire che la gente le accetta, ti ripeto, anche le leggi razziali, ma non sta commettendo nessun reato, non prende la gente, non la deporta, ma non erano un reato, non la deporta, non prende la gente, la deporta. Ma guarda che nel 38 le leggi razziali non erano contro legge. Tu stai legge, paragonando i provvedimenti di Bitonci a quelli del fascismo e del nazismo durante gli anni Sto dicendo signori, ma ti dico di più, signori di Bitonci, Parenzo, due punti. Ti sto dicendo Bitonci che le leggi come del Hitler e Mussolini, no, come Hitler, stai dicendo, come no, no, come un ti capò, sto dicendo come che un capò. Anche nel capò era un'altra figura. Ti sto dicendo che nel 38 le leggi razziali furono accettate da tutti come normali. A Padova lo devono sapere quello che dici. Lo devono sapere. Erano leggi a difesa della razza, venivano chiamate. Ma non c'entra niente. Ed erano accettate, ma ed era lo Stato che le emanava. Quindi erano perfettamente in regola, non erano contro la legge. Erano leggi fatte da uno Stato, ok? D'accordo? Oggi Bitonci cos'è che fa? Vabbè. Fa una delibera in cui dice se uno... No, ma in cui vuole controllare la salute di chi entra a Padova. Ivan da Padova. Ma cosa vuol Ivan, dire continua. Padova? Non è un'isola, Padova. Non niente di male, perché David conosce bene com'è Padova. È una città universitaria e quindi vive di questo, vive dell'integrità. Ma allora controllate tutti quelli che arrivano dal Congo, ma non da che arrivano a Padova. Non si sta facendo niente di male contro chi o contro cosa. Si sta semplicemente benissimo, Ivan, ho capito benissimo. Luca, sempre da Padova. Luca, sempre da Padova. Controllati tu, Parenzo, prima di andare a Padova, che mi sa che c'è qualcosa. Esatto, bravo. Potresti avere l'Ebola. Bravo, dovrebbero controllare anche me. Esatto, guarda, che arrivo da Roma. E Luca, vai a far controllare. Luca, Padova. Certo. Salve, buonasera. Dimmi, dimmi. Per Parenzo volevo dirgli, al di là che sono d'accordo con Bitonci, avevo chiamato per questo, su quello che aveva fatto, ma il decreto legislativo 299 adesso non cominciamo, dai. No, dice che il sindaco è responsabile della salute pubblica, certo. Quindi non sta facendo nulla, c'è un decreto legge che gli fa fare questo. Vabbè, Luca, benissimo, ma quello che ho detto io, il sindaco è responsabile. È la misura che è discriminatoria, perché ti informo a tesoro, come si chiama questo ascoltatore? Come ti chiami? Scusami che non mi ricordo. Luca. Allora, Luca, amore mio, ascoltami, anzi non amore, Luca, molto Tu dici che potrebbe essere ti voglio dire seriamente, prendere Luca. L'Ebola anche uno che non è in un immigrato clandestino. Ma certo, dici. Ma i casi che ci sono negli Stati Uniti e in Germania, anche in Germania. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere coglioni. Ma che meraviglia, io sono pazzo di voi due. Se fossi nata donna non saprei da chi farmi corteggiare, a chi avrei corteggiato. Sai che un signore che fa parte della regione Calabria, non so con quale ruolo, capo dell'ufficio, sai, là ci sono un sacco di uffici, no? Sì. In Calabria, la regione Calabria, molti uffici, molte poltrone in Calabria, no? Poltrone che sono proliferate per anni, stipendi inutili che si pagano. Vabbè, ma lasciamo questa cosa qui. Un signore che si chiama Chizzoniti ha querelato il sottoscritto, e anche Vittorio ha annunciato, nemmeno una querela, ha fatto una esposto denunzia, come direbbe il professore Carlo Tormina, alla procura di Milano, un esposto denunzia per alcune frasi pronunciate da me e dal professore Sgarbi sui bronzi di Riace, in particolare per un paragone fatto con l'Andrangheta, che era semplicemente un paragone così, cioè figurativo, no? Un paragone, sì. una metafora, cioè tengono sequestrati i bronzi come l'Andrangheta teneva sequestrate le persone quando, ti ricordi, rapiva. Come no? Nessuno ha mai paragonato l'Andrangheta vera ai dirigenti della regione Calabria, anche se qualche commistione negli anni c'è stata, diciamo, no? Diciamo. Questi fanno un esposto denunzia. Un esposto denunzia, capito? Questo è malato, c'ha l'ebola. No, Parenzo ha l'ebola. Vabbè, tra le altre notizie che abbiamo ignorato, c'è Urbano Cairo che sta con Santoro contro Travaglio. Sì, sì. E vabbè, sì. È normale che sia con Santoro e non con Travaglio, diciamo la verità. Che c'è, dice giustamente che lui il contratto l'ha fatto con Santoro. Sì, no? Certo, è scontato che Cairo stia con Santoro e non con Travaglio. Ma secondo me in quella storia ha ragione Travaglio, perché chi è cambiato è Santoro, Travaglio è uguale. È la stessa cosa, non credo che faccia cose diverse da quelle che faceva un anno fa, due anni fa, tre anni fa, quattro anni fa. Fa le stesse cose, dunque, è Santoro che è cambiato. They told me of those injustices that he had suffered in his life, his wife and kids and foster and dogs and neighbors raising. Maria Rosaria da Napoli, Maria Rosaria da Napoli. Vai. Pronto? Vai, vai. Allora, io sono stanca di sentire quelle idiozie che dice il nostro presidente. Cioè, su che cosa? Presidente quale? Della Repubblica, del Consiglio? No, no, no, del Consiglio, quello che dice che non si compra i voti con gli 80 euro. Non solo si compra i voti con gli 80 euro, adesso se ne compra due voti, comprandosi i voti dei genitori. Allora? E deve smettere con questi idiozie, non pensi che gli italiani siano stupidi? Vabbè, signora, lei pensa che questi provvedimenti non contano niente, che non portano... Lei, scusi, riprenderà questi, li ha presi i primi 80 euro, magari ha intenzione di fare un figlio? No. Non sono all'età per fare figli, ma penso che sta pigliando in giro tutti gli italiani. Vabbè. Questo è il mio pensiero, che secondo me questo la deve smettere di elargire soldi che non sono i suoi e comprarsi voti attraverso gli 80 euro. E magari quegli 80 euro capitano alla famiglia che già li ha avuti anche prima. Va bene, grazie. Giuliano da Roma. Giuliano. Pronto? Dimmi, caro, pronto? dimmi. No, buonasera. No, volevo sapere perché il dottor Parenzo, ogni volta che si parla di militanti di destra, della Lega, vengono dipinti come dei mostri. No, dei mostri, io dei mostri no. Un episodio della scorsa settimana a Torpignattara che i giornali ovviamente non riportano. E stavamo facendo una petizione, una raccolta firme. Stavamo del quartiere. Siamo stati letteralmente aggrediti dai centri sociali. Vabbè, ma quelle sono dinamiche che succedono. Ma stavamo ovunque. Chi? Stavamo chi? Chi è stavamo? Si fa una manifestazione. Ma chi è stavamo? Chi? Giuliano, pronto? Sì, ma lei deve ascoltare pure, altrimenti fa un comizio, deve ascoltare. Stavamo chi? Chi è stavamo? Stavamo facendo volantini, chi è stavamo? Chi? Stavamo facendo con i comitati dei cittadini, con i comitati dei cittadini. Anche alcuni consiglieri di Fratelli d'Italia. Era una manifestazione autorizzata. Vabbè, ma le aggressioni vanno sempre male. Ma è inutile che lei ci racconta un'aggressione. Noi siamo contro le aggressioni, per cui qual è il problema? Ciao, arrivederci. Non mi toccate Timberio Timperi. Ancora devono arrivare i provvedimenti dalla RAI. Spero non arrivi nessun provvedimento dalla RAI, Ma ti ricordi, ci fu qualcuno che è cacciato da una trasmissione per una bestemmia. ti ricordi? Sì, come no. Massimo Ceccherini, buonasera. Lo so. Ciao Massimo, come stai? Ciao vecchio mio. Ne vuoi una anche in radio? No. Già abbiamo, no, abbiamo già dato, per carità. Fate tanto di spiritosi con questo programmino di merda. Che, oh, ma tutte le volte mi dovevi rompere le palle a me, ma la volevi smettere? No, ma hai ragione, caro Massimo. Non hai niente da fare, tra scusa. Tra l'altro io, cioè, sono qui che sono veramente impegnato perché c'ho un mio amico che sta male e che sto cercando di consolare. Tiberio, dai, non piangere, dai, cazzo. Ma è da te, è da te. Sta qui che sta piangendo e dice che mi dà la colpa a me. Dice perché da quando lui viene a cena con me a Firenze. Da quando viene a cena con te ha imparato da te le cattive abitudini. Sì, povero Tiberio, ma gli ho detto, tanto non ti fanno niente, dai. Beh, non lo so, sai alla RAI come sono fatti, tu lo sai bene come sono fatti alla RAI. A me mi fecero 100.000 euro di multa. Ma le pagate quelle? Vabbè, te credo, dai. Le pagate quei 100.000 o no? No, me le learono. Ah, ti hanno levato dal cascella. Non solo Ciccio, ma io se io passo da Viale Mazzini mi fermano, non mi fanno nemmeno passare dalla strada vicino alla RAI. Addirittura io non c'ho nemmeno, non mi hanno criptato la RAI, io non vedo la televisione, non vedo Rai 1. Cioè, non solo non mi fanno andare, non me la fanno nemmeno vedere. Però scusa, Massimo, è più facile che trombi Belen che vada Rai 1 io. Cioè, quello non lo so. Secondo me, basta piangere, dai, cazzo, smettila. Ma sta lì piangendo disperato? Ma poverino. Sta piangendo perché dice già andavo di mattina alle 7, adesso non vado alle 7. E già era presto, perché gli toccava alzarsi alle 4 a lui. Però scusa, furono due, però gli episodi sono... Io vorrei fare una cosa a quelli della RAI, perdonatelo, perché ben via, era presto, era lì fra il sonno. Beh, però anche bestemmiare la mattina presto ce ne vuole, diciamo di la verità. Cioè, non è che è così semplice. Io la mattina presto non è che uno si alza per la cosa, certo, che ti viene in mente. Una sei una fava, te e tutto quello staff di merda, la radio schifosa, marcia. Ma perché ce l'ha così con la radio? Ma perché ce l'ha così con noi? Contro una volta altro che bestemmie. Però, ma cosa, scusa, fai tu tutto il giorno, scusa? Un cazzo, fai un cazzo, non fa un cazzo. Più niente, io riattacco. Scusa, aspetta che c'hai lì, ma non ce lo puoi passare. Don Tiberio sta male. Sta malissimo. Non può venire al microfono Tiberio, non può ha venire. Ha detto che è meglio, com'è che dice Tiberio? Masturbazione, no, ora voleva, ora perché ora non si ferma più, ora dice tutte robe spinte, meglio di no. Però, meglio di no, dai, si meglio. Però scusami Massimo, voleva lasciare un porc, no. Ti prego. Però scusami Massimo, sono due cose un po' diverse, perché 100.000 euro di multa a me, come diverse? Diverse erano, tu era quasi in diretta se non sbaglio, lui era una cosa registrata, l'hanno fregato, a te non t'hanno fregato, scusa, tu hai... Non sei fregato da solo. Non va in diretta la mattina, Tiberio. Sì, ma quelle robe lì era una cosa registrata, era da cancellare, invece qualcuno l'ha voluto fottere, capito? E tu sei andato diretto così. Piatto. Scusa, mamme, piatto. Ma che me ne frega? Ma perché mi devi chiamare a quest'ora che ora inizia Genoa Empoli? Mi devo rompere i coglioni con questa cosa? Ma chi mi interessa? Ma chiudi questo programma. Ma che ti frega? Ma vai a troie, quello lo fa già a prescindere. Tiberio, non te, no, ora sta andando lui, no, Tiberio, te no, stasera stai a casa, ora vuole andare alle cascine, non si può. No, alle cascine non si può, alle cascine no, a quest'ora no, poi alle cascine, sai, là è misto, è un misto mare. Non mi chiamate più, per favore, che sennò veramente non ce la faccio più, non vi sopporto, perché non ci vai tu a troie, scusami Massimo? Perché io ho una sorella che già insomma è abbastanza allegra. Quindi beh, che c'entra? Che mica stai, mica fai con tua sorella. Ho una zia maiala. Anche. Pure. Dove è scappato da parolaccia? Ti pare, vuoi dire qualcosa per riparare? No, piange. Perché... È lì che piange. Però io dico una cosa, veramente nel caso tuo, sai, quando uno è in diretta spontaneamente ti viene una cosa del genere, certo, te becchi pure la bastonata. Io ero contrario alla bastonata da 100.000 e anche all'espulsione. Non è che uno bestemmia e adesso viene espulso. Ma che, beh, che insomma, ma è no, minimo. Ma come è minimo, Parenzo? È il Massimo, minimo. Di qualcosa a Parenzo che dice che è minimo. Ma scusami, ma cosa c'è di più? Ma chi è Parenzo? Beh, appunto. Beh, vabbè, adesso Ceccherini, chi se ne frega? No, non ti conosco. Ma non me ne frega niente, ma sì, vabbè. Ma però scusami un attimo, che dovrebbe fare la RAI con... Ha fatto benissimo, ma scusami, ma cosa c'è oltre la bestemmia? Io non lo so. A me di questi parlare di queste cose non mi interessa. Io vi do invece un consiglio. Dacci un consiglio per migliorare la vostra vita. Dimmi. Io che sono un inventore, voi non lo sapete, ho inventato una nuova cosa per diventare veramente super dotati alla Rocco Siffredi. E qual è? Mettete il vostro membro dentro un alveare di vespe, lo tenete 10 minuti. Poi lo tirate fuori ed è veramente, cioè, cresce. Ti credo, te l'hanno massacrato. Un attimino, ma cresce. Ma com'è possibile? Tiberio ci vuol mettere la testa, no? Tiberio, la testa no. No, cioè, adesso, fino a questo punto no, Tiberio, dai, su. Fino a questo punto. Vi fate pungere, reiterate volte sul grande. Ma perché? Perché vi diventa una bella sberbola. Ho capito, ma diventa... ti devo ricoverare all'ospedale. Bella. Io non lo so, io non capisco. Prendete mai in considerazione. Ma poi a te che ti frega di Empoli Genoa, la Genoa Empoli, scusa? Ma niente, però non so cosa fare, cosa guardo, perché guardo, non c'è nulla, hai uno, non c'è più Tiberio, quindi che ma guardo? Tu ancora qualche moccolone lo tiri ancora dopo quella roba che ti è successa alla Rai, a voglia? Se vuoi te lo posso dire. No, per dai, carità, no, per carità, quello no. Ma quello perché no, dai, diciamo, ma perché dai. Purtroppo, in Italia ci sono dei limiti, tu ti ricordi del mitico Gennaro Mosconi, sì? Mosconi mi ricorda l'alveare dove infilarsi, sì, il grande, vabbè, d'accordo, però Gennaro Mosconi grande, era un... vedi che io parlo, vedi, io da quando bestemmiai adesso io ho fatto innanzitutto insegno catechismo, cioè sì. Ho tutto un linguaggio, cioè sono andato proprio in cura, quindi non dirò mai più niente io, perché cioè, in cura però... mi vuole far andare anche Parenzo perché dice che diciamo troppe parolacce. Beh, qui sì, farebbe bisogna bene fare una rieducazione tipo la Corea del Nord. No, voi dovreste proprio andare a fanculo. Beh, quello qua, guarda, eccolo, io qua. Ho detto una parola. Però la rieduca... non sono ancora del tutto guarito. Esatto, vedi? Non sei guarito del tutto. Vabbè, senti Massimo, adesso vai a fare in culo tu, va. Vai a fare in culo tu. Dai una carezza a coso, dai una carezza. Ma un calcio in culo, Tiberio. Ciao, no, ciao, ciao, ciao, ciao. Ebola sta arrivando, Parenzo è tra gli appestati. Domani all'aeroporto, controllatelo, controllatelo domani all'aeroporto. Silvano da Bergamo. Sì, buonasera. Vai. Allora, io sono un elettore della Lega, ero in piazza Duomo sabato, ho fatto la sfilata e tutto. Sì, sfilata. Però come dice... La sfilata, dice, non è che era la parata nazista. Ministro, di moda, eh. Il ministro Ciucciacchi è Parenzo. No, sì. non ho visto nessuna forma di razzista. No, di per carità. Com'era il ministro Ciucciacchi? Com'era? Non so come si chiama. Ciucciacchi, ministro, se uno è negro, comunque, ma non è razzismo, dire che è negro di merda. Parenzo e questo ministro a ritornare. Ma non è ministro. A pascolare i cammelli. Eccolo là, ma non è razzismo dire così. Ma va a pascolare i cammelli quel negro di merda. Ma non è razzismo. Siamo razzisti. Io nel mio piccolo ho già fatto due adozioni a distanza in India. Forse cosa che tanta gente che si lava la che bocca eroe. Parla di razzismo non ha ancora fatto. Vabbè, questo qua è malato. Loro che hanno eroe. Paura, hanno paura di Salvini e allora adesso. Ma nessuna paura. Non sanno più cosa mettere davanti. Hanno iniziato a dire che la Lega è razzista e xenofoba. Vabbè Silvano, ma io non ho capito perché deve tornare Ciucciacchi là, Ciucciacchi, come hai detto te, deve tornare. Ma cosa cazzo sta qua a fare? Ma via. È italiano. Stare lì. Beh, ma italiano, scusa, qua. Silvano è italiano. È italiano, però come si te? Faccia un giro. Ci dove faccia un giro e porti Parenzo, va. Si faccia un giro italiano come te, Silvano da Bergamo. Dai coglioni, eccolo là, ma non è razzismo, però è negro. Ma non è razzismo. Quando c'era Putin, a Milano, lo dovevano mettere in un tombino, poi hanno saldato i tombini e dimenticarselo lì. Ma chi dici? Ciao chi? Ciucciacchi? Ma tutte e due, uno, sì. Parenzo, anche tutti. Ma come perché lo chiami Ciucciacchi te? Ma non lo so come si chiama. Khalid Ciucciacchi. Cosa cambia? O Ciucciacchi o Ciucciacchi o Ciucciala, non cambia niente. Per Silvano da Bergamo, certo, dai. Giusto. E poi un'altra cosa. Dimmi, un'altra cosa. Io faccio l'autotrasportatore e vado in Inghilterra tutte le settimane, no? Sì, dimmi. Tutti questi clandestini che arrivano, noi ce li troviamo nei camion. Io la mattina alle 5, prima di andare a Calais a imbarcarmi, devo entrare nel camion. E cercare se c'è dei clandestini, perché se me li trovano io sono rovinato. Ma è giusto così. Vabbè, Silvano, ciao. Ci sentiamo domani, 18:30, ciao. Ah.